nuove, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero. Può andare. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Fino alla fine del mondo, sognando e correndo, mi toglie il respiro questa voglia di libertà. La fine del mondo, già stiamo vivendo, affronto la vita e tutto quello che arriverà. Scoprirò. Quando giochi una partita contro una squadra sulla carta più forte e favorita della Champions, insieme, ripeto, al Barcellona e al Madrid, devi essere bravo a ridurre le due partite in uno scontro diretto. I ragazzi sono stati molto bravi all'andata e ora ci giochiamo una partita secca, una finale, che bisogna vincere, o almeno facciamo 3-3. E quindi i rischi li dobbiamo prendere noi e li dovranno prendere loro. Fino alla fine del mondo, sognando e correndo, mi toglie il respiro questa voglia di libertà. Forti sono sicuramente loro, cioè, lo dice, diciamo, il loro percorso degli ultimi 5 anni, ecco, che è un percorso consolidato e insomma è di grandi vittorie. I più bravi insomma lo vedremo domani sera chi saranno stati. Innanzitutto non sono d'accordo sulla Juve più indebolita perché gli infortuni, anzi domani Juventus che scenderà in campo ha le caratteristiche, tra virgolette, le qualità per giocare questa partita come caratteristiche. Quindi noi bisognerà essere molto bravi e ci sarà da fare. È normale, per passare il turno bisogna fare una grande prestazione, poi ci vorrà anche un pizzico di fortuna. Ma loro avranno grande rispetto in noi perché in una partita può succedere sempre di tutto. Fino alla fine del mondo, ciao Pierluigi Pardo. Come va? Oggi è stata la battaglia dei tweet, poi ne parliamo questo del Bayern che prende spunto dall'asta della Juventus fino alla fine e mette questa qui immagine molto contestata. Qui è la fine, a qualcuno ha ricordato con i binari che terminano sul cartello. Sì, qui con è la una fine. Torretta, insomma, la torre che con Neuer che esce dall'Allianz Arena, modi colui che dall'altra. Vabbè, poi ne parliamo perché qualcuno ci ha visto cose molto più macabre e perverse. Notte dei lupi e delle streghe, questa per la Juventus, ma credo comunque una notte bellissima da vivere per i giocatori, i tifosi, anche i gufi che invitiamo tutti. 800-24-0024. Una meraviglia, dai, una meraviglia, una grande partita. Speriamo che non sia l'ultima, ovviamente, per l'italiano in Champions League, anche se i gufi hanno pienamente diritto di pensare il contrario e di sperare il contrario. Come Duccio, la Juve verrà asfaltata e io godrò con al cuor non Laziale, si comanda. Duccio. Al cuor non si comanda e quindi ognuno fa quello che vuole. E ha ragione Buffon, la Juve non arriva bene dal punto di vista dell'infermeria a questa sfida, anzi ci arriva malissimo. Però è una partita di calcio, sono 90 minuti, all'andata è finita comunque in parità, quando sembrava tutto già finito, e quindi bisognerà vedere, insomma, la sensazione è che sia molto difficile, sia molto stretta la strada, però... La più bella partita che hai commentato quest'anno? Quella dell'andata? Ma per certi versi sì, perché è stata tante partite in una, 60 minuti di dominio del Bayern totali e mezz'ora di grande Juve con armi e caratteristiche completamente diverse, non basate sul possesso palla ma sul blitz, sulla capacità di andare con aggressività a disturbare il possesso di palla del Bayern, a metterlo in difficoltà. Insomma, nella partita andata qualche scricchiolio nella difesa del Bayern si è visto, qualche area di debolezza del Bayern si è vista. È chiaro che stasera il Bayern gioca in casa, la Juve ha molte assenze, insomma, ci sono un po' di... Però la Juve è andata in finale di Champions l'anno scorso, non è... ed ha un... se c'è una squadra italiana che ha carattere e personalità è quella, quindi... Conte lo spirito, non gli interpreti, vero solo in parte, perché io Dybala ovviamente l'avrei voluto vedere in campo. Ah, tra l'altro, mandiamo i ragazzi al cinema? Mandiamoli, sì. Contest oggi, attenzione, contest. Attenzione, statemi a sentire. Il 16, 17, 23, 24 marzo, in tantissime sale italiane, solo questi giorni, uscirà... No, non esce in questi giorni, ma esce in, esce in altri giorni che adesso vi dico. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Siccome la persona 29 che sa di più 30, è De Luca. Aspetta, De Luca, vieni qua. Martedì 29, mercoledì 30 ecco, esce questo. Ma facciamo questo momento tipo Barsadrin, tipo Michele Guardì col comitato. Vieni qui, De Luca, spiegaci che cos'è Barsadrin. Io lo so cos'è. Tu lo sai perché ho dato anche la voce. Tu hai la voce. Ecco, ecco. Tu guarda, hai la voce, De Luca. Guarda com'è timido De Luca, che ha corso per essere. Allora, dica De Luca, dica. Sono solo due giorni per andare a vedere il film Barsadrin. Non sono quelli che ho detto io. Sì. Che non sono quelli che ha detto Carlo. I giorni esatti sono il 29 e 30 marzo. 29 e 30 marzo, ecco. E Barsadrin è un film con il racconto di un certo Pierluigi Pardo. Sì, vabbè, ma questo adesso è un film sulla storia del Barcellona. Adesso come se rimandiamo, come si fanno a mandare gli ascoltatori a vedere? Come ce li mandiamo? Come basta un SMS da parte degli ascoltatori al nostro numero 349-238-6666. Dillo piano. 349-238-6666. Perfetto. Devono rispondere a una domanda, un semplice quesito. Diciamo. Sì. Qual è il vostro gesto scaramantico che fate in occasione di grandi partite come quella di stasera? Rituale, il rituale. Il rituale. Noi sceglieremo? Noi sceglieremo i quattro più simpatici, che poi regaleremo a ognuno di loro una coppia di biglietti. Una coppia, perfetto. Ricordiamo, scatenatevi. Che De Luca, bravo in radio, è chiaro che in TV, nelle TV, nei canali regionali campani e napoletani è un'altra cosa, perché è un sex symbol. In radio chiaramente perde, qualcosa perde. Però insomma va bene. Va bene. Prima quindi, fila, gente che donne che si accalcavano per avere un bacio da De Luca. Allora, scrivete, vabbè, mi tocco le palle banane, non vincerà questo ascoltatore. Mettete anche per cortesia magari il nome e calze zebrate, ci scrivono il calze nome zebrate. E un numero telefonico cui contattarvi. Il numero telefonico c'è. Sì, cioè, mettete anche il nome, sì. Nome serve. Va bene. Va bene, però prima del traffico posso far sentire un altro argomento che mi stuzzica, di cui poi parleremo. Riguarda il nuovo allenatore della nazionale. Tavecchio tratteggia per filo del CT. Non sarà costoso come Conte e non avrà nemmeno tutto quel potere. Sembra Donadoni, invece, a quanto pare, potrebbe essere Capello. Non escludo mai niente, perché dire mai a qualsiasi cosa. Per adesso sono in vacanza, sto bene in vacanza. Non ci ho ancora pensato a un'eventualità del genere. Ne ho ricevute di chiamate in questo periodo tantissime e ho detto di no a tantissime. Per cui, come ho detto un momento fa, sono in stand-by. Tutti convocati. Tutti convocati. L'opinione dopo la partita è simile, mi aspettavo quello, ha successo, è quello che ammiro tanto del calcio italiano, bisognano poco per ammazzarti, per farti del male. Per sapere quello che fa la Juve dovrei mettermi la testa di Max, di Massimiliano Allegri, ancora no, c'avevo qualche qualità ma non questa, quindi non lo so. So che sono capace di fare le due cose, di mettersi 10 giocatori nella sua area e difendere come la squadra più piccola del mondo, e questo l'invidio tanto alle grandi squadre, invidio questa capacità di essere grande campione a difendere 8 o 9 e farlo così bene, questo è un grande talento. Abbiamo sentito quindi prima la vicina. Sono arrivati 200 messaggi. Hai detto che roba? C'è chi si mette sempre le stesse mutande, chi cammina. No, ma è una cosa impressionante. Chi lascia la macchina. Allora, ma allora ha ragione Audi Radio. Il ponte di Oleggio. Ma allora ha veramente ragione Audi Radio. Mi lecco i gomiti con la lingua. Il mio gesto scaramantico, prima di ogni partita, metto sempre le stesse mutande. Frittatona, cipolla, perdoni familiari, tutto libero. Ola da solo, atti di teppismo domestico, citazione. Io tocco le tette di mia moglie, Alex. Mi sembra. Io trovo mia moglie e poi vado come non vada. C'è bisogno della partita. Nessun rituale. Lascio la macchina sotto il ponte di Oleggio e cammino per un'ora e 45 sui gradi del Ticino. Meno male non sui binari. Leggo ad alta voce le specie di tutti i gufi europei: Allocco, Gufo Reale, Civetta, Capogrosso, Assiolo, Grazie, Paolo, Granata, Genova. Io da interista incrocio sempre dita, piedi e mani in casa mia, evitando di spostare qualsiasi cosa porta sfiga. Frittatona, cipolla, parole familiari, eccetera. Stiro, c'è anche chi stira. Ecco. Vabbè. Comunque sarà dura, trovarne soltanto quattro. Penso a Gaetano Scirea, Andare. Bello, questa è bella. Metto sul mio profilo Facebook l'immagine di un gufo, cambio continuamente poltrona, faccio una depilazione brasiliana, giro su me stesso dicendo wet estina. piazzo su Facebook che sono 5 foto con Amuleti, vari corna eccetera contro i gufi. Tiro fuori la bottiglia della birra che stavo bevendo al gol di Grosso al mondiale. Pensa, ragazzi, che deve essere diventata. Voi non state bene, no. Non state benissimo. Guardo Robby Facchinetti dei Pooh. Massimo Zampini. Ah, Zampini, il tuo rituale prepartita, qual è? Tu dove, scusa, che faccio ogni volta prima della Champions, in cui scrivo che è una serata importante per mezza Italia, ma che è importante anche per noi juventini, sostanzialmente, con ciò facendo capire che sono quasi più forti i gufi di noi, però insomma ci siamo. Senti, e ma dondoli continuamente come un pupazzo, come fa Marco? Sì, esatto, certo, ma noi tutti juventini è un po' la nostra tradizione. Senti, e preghi anche in aramaico, non mangi cibi della nazione dell'avversario, ti auguri che la tracotanza degli avversari sia giustamente punita e naturalmente siero su uno sgabello di ferro, come fa uno che non si firma, chiaro, forse, perché... Chi è che non lo fa? Immagino che sia una... Hai la maglia gialla di Tevez e il pupazzo zebrato di nome Ladurino che dorme sul divano insieme al mio amico Andrea che si addormenta sempre dopo 15 minuti? Ma certo, sono a studio qua. E poi ti travesti anche da Pardo? Come scrive un ascoltatore. Quello è un sogno, ma è impossibile da raggiungere. C'è Marco da Bologna che è il più razionale di tutti. Vado a scommettere vincente la squadra che vorrei perdente, così la gufo, e se invece si avvera vinco dei soldi. In entrambi i casi alla fine sono contento. Questo è un classico, questo sì. È un classico. È una minimizzazione delle perdite. Senti, sì. domenica quindi concerto di Calcutta, vieni? È una bellissima tentazione quella che mi hai mandato. Devo vedere un po' come sono messo, ma mi piacerebbe molto. Vabbè. Derby e Calcutta mi è piaciuta molto. Vabbè, ho fatto tutto questo per non farti per cercare di evitare l'argomento di stasera. Come ci arriva la Juve? La Juve ci arriva non benissimo, perché manca qualche giocatore fondamentale, purtroppo nell'unico ruolo, dico ancora più di Dybala, nell'unico ruolo in cui non c'è un vero sostituto, anche se Marchisio non era proprio al meglio. Anche Chiellini è un altro che probabilmente avremmo giocato una difesa a tre e non si fida abbastanza di Rugani, non proverà Evra o qualcuno del genere lì, e quindi credo che giocherà a quattro mentre avrebbe scelto forse la difesa a tre, quindi qualcosa manca. Però secondo me non è un modo di dire, quando queste squadre ormai fanno 20, cioè hanno 20 giocatori di cui le alternative la Juve davanti sono Morata e Zaza, centrocampo e comunque Hernanes, Asamoah e compagnia, vai per la giochi e non rompi le scatole che manca qualcuno. Beh, insomma, quel qualcuno Dybala io l'avrei visto in campo volentieri, e tu più di me. Senti, il Bayern gioca coi social, dicevamo prima, sì, in modo un po' discutibile, con questa immagine che tutti hanno visto e molti hanno commentato, che abbiamo provato a descrivere, che poi io credo sia il programma di stasera, non vorrei arrivare a conclusioni affrettate, ma la mia sensazione è che sia il programma, cioè la brochure che sarà in vendita allo stadio. Ho questa sensazione. La Juventus gioca il Bayern gioca sull'hashtag della Juventus fino alla fine, con questo Neuer enorme che esce dall'Allianz Arena e la scritta qui alla fine. Beh, sì, con una rotaia, più che altro, perché la vera è che sì, c'è questa rotaia, che questa scritta qui alla fine insomma ricorda Personalmente a me non ricorda nulla, nel senso, io assolutamente sono escluso nella maniera più assoluta, ma senza neanche proprio pensarci che il Bayern si riferisse a questo, sì. Per me era una cosa divertente, sfruttando un nostro motto, quindi con questo anche considerandoci, voglio dire, rivali degni, e affermando che quella era la fine del binario europeo della Champions. Poi Bayern non mi pare che abbia fatto di per sé nella sua storia nulla di voglio dire, di così condannabile, no, come ma, quello ma, che cioè, pensare adesso sinceramente pensare che l'abbiano fatto apposta è una follia. Si può pensare una gaffe, cioè credo che diciamo chi ha fatto quella roba lì, che poi magari insomma è uno, non è che certo, ci sono 150 persone, magari è uno, hanno fatto il grafico, avrà fatto questo, cioè l'errore chiaramente nasce dal fatto che una roba del genere si presta a molte interpretazioni, ed era assolutamente evitabile, quindi da condannare. Pensare che l'abbiano fatta apposta mi sembra veramente no. Assurdo. Quelle follie, la Juventus invece ha risposto con un tweet di grande eleganza, Be Heroes. Che però era già l'hashtag scelto dalla Juve già da qualche giorno, credo. Sì. Siate eroici, siate eroi. Sai che queste cose me ne intendo un pochino. Ma comunque, allora, ieri con Corini abbiamo provato a disegnare una Juve che sarà diversa da quella di questa sera. Si pensava ai due esterni, Alexandre da una parte, Cuadrado dall'altra, in un centrocampo a quattro con Pogba e Khedira e le due punte. A me l'idea non dispiaceva, il disegno sarà però diverso da quello di questa sera, Pier. Sì, può darsi che è diverso. Io personalmente ho una grande considerazione in Alexandro. Secondo me si dovrebbe quasi partire, non dico partire da lui che esagero un po', però io l'avevo detto anche l'altra volta, ci eravamo sentiti con voi subito dopo l'andata, Io spiegavo che giocasse Morata e in questo senso sono un po' dispiaciuto solo della sentenza di Dybala, che per me è un campione straordinario, anche Morata. Però io credo che serva spazi, velocità, prendere campo appena si può. E anche Alessandro è un altro che, se trova spazi, può mettere in difficoltà con la velocità, la potenza. Io utilizzerei gente così, che sa farsi di mezzo campo tutto il campo rapidamente. Quindi questo genere di giocatore lo utilizzerei, forse anche Cuadrado all'altra parte, non lo so. Però certo, stiamo a vedere cosa fa con queste assenze. Tu che dici, Piero? A me non dispiaceva la formazione con i due esterni. No, anche a me non dispiaceva, però è una formazione quella lì dove non hai praticamente cambi. Cioè, se tu parti 4-4-2 con 4 esterni su 4 in campo, non hai molte altre soluzioni. Mentre se allarghi Pogba, già ti tieni per esempio un Alessandro, che spesso è stata un'arma importante anche in corso d'opera, ad esempio nel derby, o anche contro il Napoli. E poi, insomma, secondo me c'è anche la suggestione 4-3-3 con un Cuadrado un pochino più avanzato, perché comunque per quanto io non penso che stasera la Juve possa mettersi lì e schiacciare il Bayern, cioè io penso inevitabilmente che dovrà aspettare e ripartire, cioè in qualche modo secondo me assomiglia alla partita della Roma a Madrid, dove per quanto Spalletti si affannasse a dire il giorno prima che bisognava fare la partita, certamente poi la Roma partiva addirittura da 0-2, però comunque la forza dell'avversario, il fattore campo e il DNA dell'avversario fanno sì che stasera il Bayern non si metterà a speculare sullo 0-0, attaccherà, e lo sappiamo. No, penso abbastanza. No, secondo me una certezza c'è, possiamo già dirlo al di là dei pronostici, perché poi diciamo anche la verità, il Bayern è quasi imbattibile. In Europa, tra le squadre che se la possono in qualche modo giocare, c'è la Juventus. Ora non bisogna neanche buttarsi giù del tutto, si è visto anche all'andata, comunque in quella mezz'ora di orgoglio, pur se io per primo ho riconosciuto la superiorità netta nella prima ora. Però ciò detto, è anche vero che secondo me la certezza assoluta è che il Bayern farà 65% di possesso palla, farà molti più tiri della Juventus, avrà più occasioni. Questo non automaticamente vuol dire che l'esito sarà quello che temiamo, insomma. Però sì, quelle cose, per come gioca il Bayern, secondo me possiamo già prevederle senza rischio di smentita. Massimo, prima di salutarti, sì, altro tema di giornata, non c'entra con la Juventus, ma chi vedresti come allenatore della nazionale? Prossimo CT. Guarda, io Allegri, che spero resti alla Juve, quindi la mia premessa è questa, non è un modo per mandarlo via, però Pier sa che avevo qualche dubbio prima della Juve, la Juve mi ha convinto del tutto, secondo me potrebbe essere un perfetto, tra l'altro, selezionatore, perché uno che più che sulla tattica, sul modulo fisso, punta a far dare il meglio ai giocatori che ha, quindi credo che sarebbe un eccellente selezionatore. Peccato che non ci abbia voglia, No, infatti non abbia voglia, però se no anche Spalletti, Donatore, sono tutti ottimi nomi questi, mi piacciono tutti. Il problema è che Tavecchio ha detto che non vuole più un CT così costoso e Allegri l'anno prossimo chiamerà più di 4 milioni a stagione con il nome del contratto, anche perché passerà stasera e quindi costerà ancora di più, giustamente. Tra l'altro mi arriva un WhatsApp di Claudio Zuliani, che tu conosci bene, tutti conosciamo bene, stasera gli sgonfiamo il gommone rosso, che è l'immagine dell'Allianz Arena, lapsus freudiano, di notte, è molto bello, molto suggestivo da fuori, quindi insomma questo è l'ottimismo del signor Scaramanzia. Abbiamo detto praticamente tutto. Vabbè, domenica sera andiamo a vedere i cani, dai, su, dai. Vieni. No, non è i cani, è Calcutta. È vero, Calcutta. Ci sentiamo prima e ci organizziamo. Ma vedi, ormai il livello di identificazione è totale. Definitivo. Ciao Massimo, grazie. Ciao a voi. Borsa, torniamo. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante. Laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Benvinguts a aquesta temporada. Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé. La squadra più forte del mondo. Così. Non l'hai mai vista. Barça Dreams, la vera storia del Barcellona, raccontata da Pierluigi Pardo, solo il 29 e 30 marzo, al cinema. E dunque vi abbiamo fatto sentire un trailer sonoro, vi mandiamo al cinema. Oggi assegniamo 4 copie di biglietti, i messaggi sono un'infinità. Coppie. La mangiare tagliarina d'alba con un collega, ma oggi nevica, non sono riuscito ad andare. Che è una scaramanzia, è una grande. Le vostre scaramanzie, i vostri rituali per partita. Indosso maglietta che avevo la finale mondiale Spagna 82, il problema è che avevo 13 anni e allora faccio di tutto per stare magrissimo, non sempre ci riesco, a chi lo dici. Gestacci a mia moglie granata, è un rito. Toglia Torino, ecco. 800-349-238-6666, scrivete messaggi. Nel frattempo, che WhatsApp, diciamo, insomma, certo, è arrivata certo. Circa un'ora fa è arrivata la risposta del Bayern, che dice sfortunatamente la nostra grafica del match day, quindi immagino che sia veramente quella del programma che i tifosi troveranno stasera e potranno acquistare, quindi da questo punto di vista è ancora peggio, perché rimarrà, diciamo, una traccia cartacea. È stata comunque, questa grafica è stata misunderstood, come possiamo dire, mal interpretata per rappresentare eventi storici che assolutamente non intendevamo invece rappresentare. Se abbiamo colpito i sentimenti dei tifosi della Juve, in particolare di altri, che noi ci scutiamo sinceramente, la nostra unica intenzione con la grafica era giocare sugli aspetti sportivi di questa serata di ottavi di finale Champions League, dove una delle due squadre dovrà chiudere la competizione. Ma grossi dubbi non ce n'erano. Ma assolutamente, non c'erano i dubbi. Detto questo, insomma, di queste immagini ci potevano pensare un po' meglio. Cioè, veramente dico, il grafico, il non so chi è il direttore, molto aggressivo. Diciamo che è molto aggressivo. Sì, diciamo, insomma, sì, ma soprattutto in riferimento al treno, che poi l'aggressività è un aspetto. La parte che realmente ha reso tutto questo un piccolo caso è il treno. Sono quei binari. Che ovviamente ricorda cose molto più tristi. Allora, 800-24-0024, numero verde, Mauro, Raffaele, Francesco. Ragazzi, un attimo di pazienza, poi innanzitutto facciamo i complimenti a Peter Phil, che oggi, dopo, insomma, è entrato nella storia dello sci, del nostro sci in particolare, vincendo la Coppa del Mondo di discesa libera. È bastato un decimo posto per superare Svindal. Dario Ricci lo ha appena intervistato, più tardi ve lo facciamo sentire. Più tardi deve avere anche Marco Berinazzo, si è finito di litigare con Pallotta. Intanto, Mauro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, chiamo in riferimento all'intervento di un ascoltatore di ieri e al vostro intervento, dove in un certo senso si reclamava un po' più di incisività da parte del Pogba, di Paul Pogba. Niente, io insomma la vedo così. Pogba fa centrocampista. Trovatemi voi un centrocampista che prende palla nella propria metà campo e la riporta negli ultimi 20-30 metri della metà campo avversaria. Questo puntualmente Pogba, anche se non è in forma, lo fa 5-6-8 volte a partita. Che incisività vogliamo da Pogba? Lui non è in centravanti come Higuain, che può fare un gol a partita. No, ma non gli si può chiedere certo un gol a partita, e nessuno gli chiederà mai un gol a partita. Il sogno di Guardiola è quello di allenarlo per renderlo più continuo e più completo. Quello che dico io è che secondo me, soprattutto in grandi partite, ti aspetti che un giocatore così dal talento così sconfinato possa lasciare tracce maggiori. Qualche volta succede, altre no. O sbaglio, Pier? No, non sbagli, assolutamente. Io credo che sia condivisibile, assolutamente condivisibile. Raffaele. Sì, ciao Carlo, ciao per Luigi. Ciao. Io chiamavo a proposito della nazionale. Penso e spero che alla fine ci sia Capello in panchina, perché è il profilo più con più esperienza, con più personalità, insomma è potente come figura, e credo che poi alla fine Tavecchio una proposta gliela faccia. Sì. Oltre al fatto che Capello potrebbe pure accontentarsi di uno stipendio più basso, anche perché diciamo, I soldi che prendevi in Russia certamente non li può chiedere in Italia, no. Però è talmente ricco che potrebbe essere davvero l'ultima così grande avventura della sua carriera, forse il coronamento finale di un sogno. Comunque sono d'accordo sul nome di Capello. Sì. Cominciamo la campagna. Ieri abbiamo fatto per Donatoni, oggi per Capello. No, beh, Capello in effetti, se fosse disponibile, sarebbe una bella soluzione, anche perché sicuramente lui appunto non ha voglia di andare a fare esperienze, avventure dall'altra parte del mondo. Comunque a livello di esperienza internazionale e sulla capacità di assemblaggio dei giocatori, per me è un allenatore che rimane straordinario. Cioè lui è un grande semplificatore, è uno che semplifica il calcio. Probabilmente esistono allenatori sulla pratica quotidiana anche migliori di lui o sulla creazione di nuove fantasie, di nuove idee di calcio, ci sono probabilmente allenatori che hanno fatto più la storia di lui, ma dal punto di vista del risultato, dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista della disciplina, Capello secondo me ha pochissimi poi rivali. Al top mondiale dal punto di vista del carisma. È chiaro, poi parlate anche la lingua, no? I learned some new languages, so I'm ready. Ecco, no, sarebbe, gli faccio, io sarei, insomma, mi piace molto, anche Donadoni mi piace ovviamente, sì, come suggestione, ma... però Capello credo che sia una... Dovessi scegliere io, piglierei Capello. Anch'io. Io. Almeno io. Francesco. Anch'io. Francesco non lo so. Dica. Rotto, buongiorno. Buongiorno. Come va? Dunque, abbastanza bene, grazie, Pardo. Lei tutto bene? Tutto a posto, sì. Mangiare un panino con De Luca giù. Ottimo. Io sono a dieta. Capito, un panino. No, mangiare un panino, mica la matriciana. Voglio dire, mangiare un panino, tra l'altro anche così un simbolico. Simbolico. Due cose rapidissime. Dunque, stasera, vabbè, da juventino dico che non vinceremo mai al 90esimo. Secondo me l'unica chance che abbiamo è di portare un bel 2-2 ai tempi supplementari, vincere ai rigori. Questa è la speranza che ho io. Però, vabbè, speriamo. Seconda cosa rapidissima, che però è abbastanza importante, andrebbe a parlarne un po' di più forse. È il 50esimo infortunio in casa Juve quest'anno. Vogliamo un po' affrontare il tema ogni tanto anche dei preparatori atletici e tutto il resto, perché siamo la squadra più falcidiata d'Europa con gli infortuni. E c'è qualcosa, secondo me, che non va proprio nei nostri preparatori. Cioè, lo staff di Allegri, a mio avviso, c'è qualcosa che va lì. Mi sembra incredibile che una squadra possa avere 50 infortuni, molti di questi reiterati, sono molti, eccetera, in una sola stagione. Non è assurdo. Sono oggettivamente tanti, poi possiamo tirare in ballo la solita preparazione che si fa dall'altra parte del mondo, che vale per tutte le grandi squadre, però onestamente sono davvero moltissimi gli infortuni della Juventus. Ciao Filippo Maria Ricci. Hola. No, caduto. Non lo sapevo, c'era scritto Filippo Maria Ricci e io ho detto Filippo Maria Ricci, che richiameremo subito dopo il traffico. Senti, ma a proposito dell'infortunio di Pogba, tu non hai visto niente di strano, di misterioso, perché c'è stato, insomma, è andato a parlare con le televisioni lunedì. Sì. Poi è praticamente scomparso dai radar, si è scoperto, si è fatto male con il Sassuolo, o hanno capito che era qualcosa di più grave del previsto, o... Poi Allegri ieri ha detto, ma quasi mi ha tolto di imbarazzo perché io volevo far giocare Morata. Questo non ci credo, cioè credo piuttosto che sia stata una dichiarazione per caricare Morata. Però è stato un susseguirsi di fatti abbastanza strano. Sì, ma sì, sono d'accordo. Anche perché, insomma, mediamente se tu fai parlare uno il lunedì pomeriggio con la partenza in aereo da martedì, certo, si parte dal presupposto che non ci siano problemi. Però sappiamo che è un discorso di sovraccarico. Io non so che dirti, l'ho capita malissimo. Ho capito malissimo questa cosa qui. E vabbè, basta. Adesso c'è Morata, Mandžukić, che fra l'altro non è al meglio. È comunque una coppia competitiva. Se sarà 4-3-3 ci sarà, credo, Cuadrado, che darà una mano, sì, per rendere tutto più veloce. Questa è la situazione. Lo stato dell'arte non consente grandi voli pindarici. Però, insomma, ripeto, è una partita secca. Io sono convinto che la Juve sia una grande squadra e che paga essenzialmente una sciocchezza enorme che ha commesso a Siviglia. Perché nelle due partite secche con il Manchester City ha vinto l'andata e il ritorno. Quindi, da un punto di vista proprio di approccio alle grandi partite, fin qui ha dimostrato di essere assolutamente di grandissimo livello. Sì. Ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo appunto Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Tutti convocati. Tutti convocati. Un risaluto. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Ciao. Che passa? Non si sentiva bene. Che passa? Posso dire una cosa? Sono bravi sti spagnoli, però ci hanno pure... L'Atletico Madrid c'hanno pure un po' di culo, eh? No, è suerte, eh? Vogliamo parlare del catenaccio olandese, questa novità, dopo il calcio totale. Beh, catenaccio. C'è stata anche una palla gol pazzesca. E che devono fare? Vabbè, un palo clamoroso. Io ce l'avevo, mi hanno, all'Atletico, no? Il Calderon si sistema veramente peggio che in piccionaia, ero dietro una porta lontana. E vedevo però questa linea di sei difensori meravigliosa, schierata sotto i miei occhi. Era veramente un bel vedere. Una linea Maginot. Immagino. Comunque, 16, ci sono voluti 16 rigori dopo due partite e mezza senza gol. Come li tiravano bene? Pensa il Barça come li tira male. Ne ha tirati 15 in Liga e ne ha sbagliati 8. Pensa, ieri hai visto 14 tutti i rigori. Sì. Poi nessuno... Nessuno ha passato il pallone a un compagno durante la serie di rigori, esatto. È abbastanza incredibile. Esatto. Sì, rigori veri, classici. Quando ho visto entrare Fernando Torres ho capito che di gol non se ne parlava ieri sera. No. È la prima volta nella storia della Champions League, quindi dal 92, che non ci sono gol all'andata e ritorno. Che strano, sia coinvolto Simeone. Sì, allenatore offensivo. Il patriarca del gioco offensivo. Esatto. Però la cosa più bella, comunque, voi non ve la godete abbastanza, è, sai che qui in Spagna no, a noi ci rompono le scatole, che siamo difensivi, e qua, l'Italia... Oh, l'Atletico di Simeone non lo tocca nessuno, nessuno che si azzardi a dire no, però non è che giocate proprio benissimo, non è proprio un calcio spumeggiante, non gli dice niente nessuno, perché vabbè. Il ciolo, cioè, anche questa è la sua forza comunque, quindi io sono abbastanza ciolista, però mi fa ridere molto essendo italiano che a noi ci ammazzano, però l'Atletico va bene, qualsiasi cosa faccia va bene, perché è così. Intanto stasera ti consoli con il Barcellona che andrà a spasso su un Arsenal parlo in rottura prolungatissima. Ma adesso dobbiamo parlare di questa partita qui, di questo 6-1, perché sono le macerie di Highbury praticamente, che non c'è più uno. Possiamo dire, cioè, adesso se Wenger finisce la stagione, come credo, senza vincere nulla, perché forse è ora di cambiare, tu dici? Basta, no, dai, posso dirlo, ma è veramente, ma basta. Ragazzi, quest'anno il campionato in Inghilterra di lo Arsenal con la F gli hanno fatto. Guarda che quest'anno l'Arsenal sta buttando, non è la sola, perché il City è ancora più colpevole, secondo me. City, United, Chelsea, tutte vanno male, però City per me, fra quelle, tolto il Chelsea che è una storia di quest'anno assurda, eccetera. Poi dopo il Chelsea, tecnicamente dove c'è il City, anzi il City è anche avanti al Chelsea ed è un suicidio in Premier League. Ma in una stagione così, dove il Chelsea è morto, il City è morto, sei praticamente lì davanti all'inizio della stagione, ma puoi stare a meno 11 dall'Ester, ma di che parliamo? Di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? What are we talking about? Dai. E questa sera una bella ripassata dal Barcellona. Mandiamo, posso fare una proposta? Mandiamo Zamparini una settimana a Londra, presidente. Sì, all'Emirates. Ma una settimana. Cambia 2-3 allenatori. Ne cambia 3 in una settimana, ci rimettiamo in pari per 20 anni. Ma in Inghilterra c'hanno però sto vizio della lungodegenza in panchina. Sì, nel caso di Wenger. Questa è la mi piace questo termine, è proprio la lungodegenza. Qui siamo all'accanimento terapeutico, con Wenger. Lo dico con un rispetto grandioso. Ha vinto tanto, ci sono stati anni nei quali era l'unico allenatore che invece spendere soldi cercava di risparmiare, cioè il suo obiettivo era al Barcellona, per esempio, Petit e Overmars pagati a peso d'oro, Leb pagato a peso d'oro, era un grande venditore Wenger, adesso non gli è rimasto neanche questo, insomma, non lo so, vabbè. Ma è la ventesima stagione, 20 anni. Cioè nel 90 aveva appena iniziato l'università, c'era Jarvis Cocker che cantava disco 2000, Let's All Wait Up in the Year 2000, perché il 2000 era lontano, capito? Certo. Ci vedremo quel giorno nel 2000 e Jarvis Cocker nel 96, dai. Te aveva appena cominciato l'università, insomma, facevi l'Erasmus. De Luca, quanti anni avevi nel 96? 13. 96 aveva 13 anni, Senti, sì, Filippo, in Spagna quante chance danno alla Juve? Poche, però attenzione, sono in crescita e comunque c'è un grandissimo... Ecco, la cosa più bella di tutto questo è che la Juventus si è guadagnata un grande rispetto europeo. Per cui è chiaro che le chance non sono tante, perché comunque stiamo parlando del Bayern, di Guardiola, attenzione. Però rispetto a, che ne so, l'anno scorso, no, un anno e mezzo fa, la Juventus è cresciuto rispetto alla Juventus in maniera esponenziale. Ovviamente se l'è guadagnato buttando fuori il Real Madrid, arrivando alla finale di Champions, giocandola bene, perdendo però con onore, e per cui adesso a me mi hanno chiesto vari pareri, la gente qua diciamo, ma come, insomma, è la vecchia signora, che gli piace dirlo, qua lo usano tanto come termine, però vedi, è sempre una squadra dura, difficile da battere, magari ce la può fare, è chiaro che Barcellona è il super favorito, però si è guadagnato un rispetto europeo che se stasera fa l'impresa proprio schizza a livelli bestiali, speriamo, no? Io non lo so, è dura, però vabbè. Se c'è una squadra che lo può fare è la Juventus, mettiamola così, no? Ha detto anche Guardiola. Grazie Phil, a voi, alla prossima. Ciao. Filippo, ciao, Maria Ricci. Cioè, hai sentito piuttosto cosa ha detto Di Rea invece all'Eco di Bergamo, che se batte gratis, se batte domenica il Bologna allena gratis la prossima stagione, secondo me come minimo bel qualcuno. Pareggiotto di un bel pareggiotto, poi adesso lo metterti in parola, balla mezzo milione di euro, poi non vorrei che i colleghi dell'associazione allenatori dicessero ma come, cioè, alleni gratis, ma in che film l'hai visto. Carina anche quella di Hamilton, sentito di Hamilton? No, Hamilton. Ne ha fatto un altro. Hamilton Formula 1. Sì, te conosco. Formula 1. Preparato. Ok, cacciato da casinò, primo. Via dal casinò perché non voleva togliere gli occhiali e il cappellino e non era permesso. E continuava a usare il cellulare via dal casinò. Poi ha avuto la grande idea, sempre in Australia, di farsi un selfie mentre andava in moto e la polizia sta indagando. Se può fare. Non si può fare il selfie mentre in moto? No, se può. Da fermo sì, però. Ma lui andava. Andava, si capiva dalla foto dove andava? Sì. Ah, perché c'era la velocità. Sì. Era un video. Che vuol poi? Gente non conosce le differenze. Non è giovane come noi dell'83 di Luca. Non conosce la differenza tra selfie e video. Non ci capisco nulla. Senti, 800-24-0024. Andrà a Spezia, però dopo arriva Berinazzo e affronteremo anche l'argomento di Pallotta, perché sai che si è scazzato duro con Berinazzo. Sì, ma soprattutto c'è anche il caso Pallotta Totti. C'è anche il caso Pallotta Totti che non è male. Abbiamo anche quell'audio che faremo ascoltare con la traduzione simultanea di Pierluigi Pardo. Yes, Antonio, buongiorno. Buongiorno. Come dunque, intanto molto bene, un piacere parlare con voi. Insomma, molto molto divertente. Io volevo chiedervi un parere, perché c'è una discussione più o meno da bar che ho avuto con un amico, per cui ci sono due interpretazioni, due esegesi che si possono fare della partita Juve-Bayern dell'andata, e io volevo sapere qual è la vostra. Vai. Cioè, una è dire che appunto se la Juve avesse osato di più fin dall'inizio, visto che quando poi il Bayern ha osato è riuscito a fare due gol, sarebbe stato meglio, per cui la sconfitta, cioè il pareggio 2-2, che è quasi una sconfitta in casa, è dovuto all'atteggiamento catenacciaro, insomma, troppo rinunciatario. E questa è la 1. Mentre la 2 è che la Juve è sicuramente inferiore al Bayern, che quindi è riuscita poi a fare due gol perché il Bayern era troppo stanco, aveva dato troppo atleticamente nella prima parte. Però sai, così ha fatto un errore il Bayern di Monaco. Senza. Io sono più per la 2. Anch'io sono più per la 2. Cioè, penso che nel finale la Juve si sia risvegliata e ha ripreso coraggio, coscienza delle proprie qualità. Però non credo che avrebbe potuto fare 90 minuti giocandosela alla pari. C'è poi anche da ricordare che comunque sui gol, almeno su uno dei due gol, c'è anche un episodio. Quindi insomma, certo. Bisognava fare una partita perfetta. Come servirà stasera? Ci fermiamo per Berinazzo, Totti, Giovalli, Piccinini, ci aziona. Buona giornata. Tutti convocati. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Tutti convocati. E ricordo che ci ha raggiunto Berinazzo con un occhio nero. Eccolo qua. Ha fatto cazzotti con Pallotta ieri, dopo aver scritto che la Roma era era sul mercato. Sì, no, chiariamola questa cosa, per carità, perché ieri è stata una lunga giornata e non voglio passare un'altra. Allora, Pallotta non vuole vendere la Roma. Pallotta resta a Roma e resterà a Roma anche senza lo stadio. Quindi questo, altrimenti arriva la Consob e ci arresta. A quello che... A te. A me, a voi, voi avete, prendetevi le vostre responsabilità. Io mi dissocio subito. Mi dissocio pure io. Ma ragazzi, minimo di solidarietà professionale. Voglio bene a Balinazzo, ma mi dissocio. Mi dispiace tanto perché gli voglio bene, ma mi dissocio. No, la verità è che invece, insomma, in questi mesi, proprio perché c'è un'attività importante di risanamento del club, c'è un progetto, quello dello stadio, ci sono stati, insomma, degli abboccamenti dei soggetti interessati al club, e quindi è normale che alcune banche d'affari stiano come dire, lavorando al dossier Roma. Questo credo che possa far piacere alla stessa proprietà americana. Quello che è in fondo, insomma, tutta questa storia è davvero il nodo dello stadio. Pallotta ora ci ha detto che forse nel 2018-19, in realtà i primi programmi prevedevano la posa della prima pietra adesso, ma il vero problema è perché la Roma sta ritardando nella presentazione del progetto definitivo. Problemi di liquidità, problemi urbanistici, insomma, bisogna capire questo, e che è centrale sia per il business plan di Pallotta sia per il futuro della Roma, al di là del caso Totti. Sì, il problema è che le prime pietre in Italia costano carissime, costano più care dei diamanti. A proposito di Totti, sentiamo Pallotta. Roma, we have a player who is arguably one of the greatest players ever in Italy, which is Francesco Totti. Noi abbiamo un giocatore che è indiscutibilmente uno dei migliori al mondo, che è Francesco Totti. And while he still has unbelievable talent, lui ha ancora un talento incredibile, delle enormi qualità. E lo ringrazio. Ma il punto è che non può giocare nella stessa maniera di prima, perché il suo corpo non risponde alla stessa velocità della sua testa e vuole un altro anno di contratto. E poi vabbè, la parte successiva che non abbiamo sentito, la sentiamo. E la pressione a Roma per me, per dargli un altro contratto, è incredibile. Abbiamo avuto molte conversazioni, gli ho detto che lui rimarrà per altri 30 anni con la Roma e che deve pensare a una strategia vincente per poter lasciare la carriera di giocatore. Io non trovo così difficile questa cosa, ma è molto difficile per gli italiani, per la cultura dello sport in Italia. Lui è chiaramente l'icona della Roma e potrà andare avanti per altri anni come in un altro ruolo. Cosa ne pensi, al di là di questo impeccabile voiceover? Thank you so much. Well, I tend to think that the Italian culture is... No, io penso questo, che Pallotta, che ho avuto modo anche recentemente di intervistare a Madrid e quindi anche di vederlo dal vivo, l'ho incontrato a una cena dopo Roma-Fiorentina, insomma è un uomo di grande spontaneità nelle sue affermazioni. Forse da questo punto di vista diciamo che in Italia siamo abituati a figure un po' più politiche, sì. Per cui lui ha detto, secondo me, delle cose essenzialmente di buon senso. Cioè ha detto, Totti è una leggenda assoluta, uno così chissà quando mai rinascerà, c'è per lui il posto a vita in società, bisogna trovare un modo perché concluda nel migliore dei modi dal punto di vista della gloria della sua carriera. Poi ha detto alcune frasi che chiaramente fanno meno piacere alla piazza e che diciamo forse gli avrei sconsigliato di dire in un'ottica diciamo quella diplomatica, della pressione quella mediatica, sulla pressione che c'è su di lui, il fatto che il corpo non risponde alla stessa velocità della testa. Che è vero, lo sa anche Totti, perché è ovvio che 10 anni ragazzi, fa no, era un'altra cosa, vale per tutti gli esseri umani viventi, però è chiaro che il fatto di dirla crea inevitabilmente trambusto e turbolenza. E io penso che la sostanza sia giusta, cioè Totti, allora la mia idea è questa: se Totti vuole giocare ancora e vuole andare a fare un'esperienza da un'altra parte, come quella che ha fatto Del Piero nella parte finale della sua carriera, perché legittimamente ha voglia di giocare a pallone, non puoi togliere io nessuno. Credo che non ci siano problemi. Se Totti vuole rimanere alla Roma, come ha fatto capire, bisogna trovare una quadra con Spalletti e con la società, perché è chiaro che Totti non può diventare una figura che ti condiziona di settimana in settimana. Non lo è, perché poi è un bravissimo ragazzo, no. Ha avuto questa uscita, questa intervista alla Scarlatti, però sarebbe anche triste vederlo, ma sì, vederlo ma, un'altra ma stagione poi, così, no? Se c'è un tifoso della Roma più di tutti gli altri è lui, quindi è ovvio che lui non vuole fare, scientificamente lui non farà mai niente che andrà contro la Roma per danneggiarla o per creare impaccio al suo allenatore. Però è ovvio che se si decide di fare un'altra stagione bisogna trovare un armistizio, una quadra, un patti chiari di amicizia lunga fra lui e Spalletti sul modo di gestire quest'ultimo anno di carriera. in generale poi Totti è un valore per questa società enorme, quindi io credo che non riesca difficile a Pallotta fargli un contratto a vita da ambasciatore, questo perché su questo io so come la pensi tu, Carlo. È vero che ci sono delle leggende, delle bandiere che non hanno automaticamente diritto al posto dopo, ma Totti a Roma è una cosa diversa, ecco, forse è come Maradona a Napoli, ma anche di più, perché Totti poi nasce romano, romanista, dedica tutta la sua sostituire la lupa sul simbolo della Roma, perché una delle cose che non ho tradotto ma che diceva anche Pallotta è che Totti è comunque uno che fa vendere magliette, ha un valore anche commerciale, come Berinazzo, infatti secondo me, ecco, l'idea di un'esperienza della MLS in cui Totti vada lì come, come testimonial della romanità e della Roma, per fargli fare un'esperienza di un anno in una realtà che è molto competitiva dal punto di vista anche, se vuoi, commerciale, no? Certo, e del management, certo. Anche per fargli toccare e vedere i due diversi punti di vista non sarebbe male, ovviamente. Capisco che magari non gli va, che magari insomma banalmente magari ha difficoltà a spostarsi. C'è pressione da Roma mediatica per il rinnovo del contratto di Totti, secondo te? La pressione c'è, perché Totti, insomma, io l'altro giorno ho citato e lo ricito il mio amico Luciano Nobili che dice che Totti sta alla Roma come Gesù sta al cristianesimo, è un po' blasfemo, ma è così, cioè siamo il livello di confusione che esiste fra la squadra e il calciatore, di confusione positiva, di identificazione, enorme. Ci sono dei tifosi della Roma che durante la partita contro la Fiorentina o contro il Palermo cantavano Totti gol più di quanto cantavano per quelli che erano in campo, ed è assolutamente legittimo, è assolutamente, fa parte secondo me di una delle cose belle, sentimentali del calcio. Questo è un giocatore che ha dedicato tutta la sua carriera alla Roma. Quando l'altro giorno dice che il Bernabeu rimane un suo rimpianto, dice una cosa tenera e vera, perché è evidente che se lui è rimasto a Roma ha guadagnato giustamente tanti soldi, probabilmente psicanaliticamente ha anche evitato di prendersi dei rischi di un certo tipo, no? Perché comunque cambiare aria è sempre un rischio, però è anche vero, secondo me, che ha fatto essenzialmente un atto di amore per la squadra per la quale gli fava da bambino, quindi Totti ha un valore economico e sentimentale, una quadra secondo me devono trovarla. Sarebbe triste che questo finale di partita fosse con polemiche. Questo finale di carriera di Totti sarebbe assurdo. Ma sarebbe anche triste vederlo un'altra stagione in questo modo. Non sì, però voglio dire, se è veramente pattichiere, amicizia lunga, e lui viene e fa dei camei, io non glielo consiglio. Nel senso, io fossi lui, aderirei al piano Berinazzo. Anch'io. Cioè, farei una bella stretta di mano con Pallotta. Direi va bene, io adesso mi faccio un anno, due anni, quello che voglio ancora da calciatore in un posto. Ho il contratto aperto, quando torno ci facciamo 6 anni, 10 anni, 20 anni insieme. E nel frattempo magari lavoro anche su me stesso, perché comunque la conoscenza delle lingue, è vero che Totti penso che farà, può fare anche semplicemente l'ambasciatore, perché è talmente grande per la Roma già da ambasciatore va benissimo, potrebbe già cominciare a farlo. Però comunque, magari anche in un'altra se l'ambasciatore sa le lingue, se l'ambasciatore comunque ha visto altri mondi, non fa male in assoluto, in generale, no? Se in questo anno, due anni cresce dal punto di vista di relazioni con i dirigenti di altri paesi, è una cosa molto sana, molto positiva, però deve decidere lui. Se lui alla fine invece c'ha voglia ancora di battere lì, i calci d'angolo a Trigoria e di fare magari 20 minuti di qualità e di inventare, perché ancora il calciatore ha un talento enorme, è chiaro che la mobilità non è più quella di qualche tempo fa. In questo Pallotta è forse troppo sincero. Stiamo già sfidando Robocop. Hai fatto bene a ricordarlo. Ecco, perché io francamente di cose così ne ho viste poche, ed è anche vero che Totti alla fine ha fatto la forza di Totti è stata anche nella sua longevità, perché lo ripeto sempre, fino al gennaio del 2015, quindi fino a 14 mesi fa, cioè Totti è quello che fa la doppietta nel derby. Quindi ha avuto una longevità di carriera straordinaria. Però vedi che anche un anno e mezzo a quell'età fatalmente risenti, certo. Poi hai avuto anche di nuovo un infortunio, eccetera, insomma. Ti devo salutare, sì, Pier, vado, che devi andare. Intanto mi tengo Beninazzo con cui altre cose di cui dibattere, e vi faccio sentire qualcosa che spero sia ben augurante, dai. Se volete, fate gli scongiuri, però le volte che abbiamo battuto i tedeschi. La drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato Schütte, passaggio Rivera, rete Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. calcio di Thuram, cerca Ibrahimovic, sputa per Nedved in area, Nedved, fa un sinistro e tiro, Nedved, la Juventus è in vantaggio. Cannavaro, Cannavaro, che contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Girardino, dentro Del Piero, Del Piero, diventa re nella notte di Madrid. Speriamo di aggiungere un'altra coda a questo nella notte. Allora Marco, abbiamo parlato della Roma e ci ha spiegato lo stato dell'arte. Hai scritto anche di altri club che potrebbero, sì, è un momento, essere ceduti. Sì, ma guarda, c'è il momento dell'Udinese che è particolare, quello del Milan lo è da tempo. C'è un momento molto, una sorta di congiunzione astrale per quanto riguarda il calcio italiano, perché c'è una certa debolezza di cui abbiamo parlato spesso, insomma, patrimoniale e strutturale, ma c'è un grande blasone e questo rende i club italiani particolarmente appetibili. Mentre oggi anche andare a comprare un club di serie C in Inghilterra ti costerebbe tantissimo, e in Germania non si vendono i club per le regole federali, in Spagna oltre quelle due lassù, insomma, quello che si poteva comprare è stato già comprato, il mercato è quello italiano, quindi ci sono tante voci che si rincorrono intorno a tanti club e c'è questa trattativa molto interessante che per esempio riguarda l'Udinese, perché l'Udinese voleva cedere il Granada, sappiamo che la famiglia, sì, Pozzo ha le tre squadre, e proprio nell'ambito di questi colloqui invece sarebbe stato proposto alla famiglia Pozzo un'operazione in stile Manchester City, cioè da parte di alcuni investitori cinesi, soliti e inevitabili investitori cinesi, visti i soldi che hanno, si vorrebbe entrare con una percentuale, una sorta di gruppo, come è stato fatto appunto con il Manchester City, che comprenda, diciamo, investimenti, tutti e tre i club, o comunque Udinese e Watford. Il Watford è la gallina dalle uova d'oro, ma è di Pozzo. L'Udinese ha la sua storia ed è comunque un club appetibile. Eventualmente il Granada, qualora dovesse salvarsi e restare in Liga, potrebbe rientrare nel progetto. Insomma, si sta lavorando, una cosa che credo sia molto interessante, anche perché i Pozzo stanno già comunque mettendo un piede in Cina per valorizzare quello che è il loro modus operandi, insomma, cioè puntare sui giovani e sul vivaio. Certo, anche la Vezia ha messo un piede in Cina, come sa Antonio da Napoli, che è in linea, e si è subito affrettato a dire: lo faccio esclusivamente per i quattrini, perché già in Francia ero in un campionato non competitivo che non sentivo mio, avevo nostalgia della Serie A italiana, però tengo famiglia e quindi vado lì a farmi ricoprire d'oro. Antonio? Eccolo. Buonasera. Siamo già sentiti. Buon pomeriggio. Non ci sentiamo dai tempi di Juventus-Barcellona. Devo dire che allora ho portato molta fortuna alla Juve e mi auguro ed auguro alla Juventus tantissima fortuna per questa sera, con questo modulo che Allegri adotta in modo ineccepibile, palla lunga e pedalare. Spero vivamente che possa battere stasera il Bayern di Monaco. A tutti i tifosi juventini, auguri! Antonio, vabbè, così ci ha rovinato l'esistenza per le prossime giornate di tutti i convocati che si sommergeranno di, no, diciamo, improperi. Allora che per condizione, insomma, che ci aspettiamo una, nonostante le assenze, insomma, quella è sfortuna per la Juventus, insomma, che si possa fare una bella partita, insomma. Anche perché perderebbe un sacco di soldi, tra le altre cose, oltre a quella. Ma sì, meno di quello che si pensa, perché comunque il ricchissimo market pool italiano viene riservato alle due squadre. La Roma, per fortuna, della Juve è già uscita, e quindi mal che vada la Juve resta avanti e prenderà più soldi della Roma comunque, insomma. Sì. Quindi da questo punto di vista, certo, sarebbero i premi per i passaggi, insomma, del turno. L'anno scorso la Juve quasi 90 milioni ha incassato, più del Barcellona che ha vinto. Sì. E quindi è chiaro che dal punto di vista economico sarebbe un danno, ma credo che non abbiano messo in preventivo quelli della Juve di ritornare a una finale, insomma. Cioè, se lo augurano, ce lo auguriamo da italiani, anche perché, insomma, effettivamente c'è questo strapotere di alcune squadre che sta diventando un po' noioso, un problema, e non a caso si continua a parlare di Superleghe. Certo, si sono incontrati ieri Rummenigge e Agnelli e si trovano d'accordo su questo progetto. Sono assolutamente d'accordo, perché effettivamente c'è bisogno di porre le basi per una diversa, un diverso modello, ecco, di sviluppo del calcio europeo. Modello NBA, NFL, sono stati citati, le grandi leghe americane, e questo è in parte un modo per mettere il coltello alla gola all'UEFA in vista della riforma, in parte potrebbe essere un progetto di evoluzione, forse addirittura fisiologica e naturale. Senti, ma il Milan, alcuni ascoltatori ci rimproverano di sottolineare spesso in rosso i conti dell'Inter e quelli del Milan, mai, ma anche il Milan, l'Inter piange, il Milan certo assolutamente no. Il Milan credo che stia chiudendo in queste ore il bilancio 2015, parte da un meno 90. Per evitare sanzioni e fair play finanziario, il Milan ha giocato d'anticipo, cioè ha sfruttato, ed è la prima squadra europea che lo ha fatto, una possibilità concessa dalla UEFA di fare questo voluntary agreement, cioè sostanzialmente un accordo preventivo, in cui il Milan ammette di non rispettare o che non rispetterà da qui a 3 anni alcuni parametri del proprio finanziario. In cambio però ci sono delle possibilità di incremento del fatturato che l'Inter e il Milan ha indicato in questo piano. Sono andati Barbara Berlusconi e Umberto Gandini a parlare con la Nyon. A maggio la UEFA dovrà accettare o meno questo accordo. Nel caso in cui venisse accettata, è chiaro che il Milan si proteggerebbe da eventuali sanzioni per 3 anni e dovrebbe, insomma, attuare questo piano. È chiaro che poi alla fine di questo periodo si faranno i conti, e qualora non dovessero essere rispettate ciò che il Milan ha proposto, scatteranno però in automatica, a quel punto senza più possibilità di mediazione, le sanzioni previste dalle regole sul fair play finanziario. Insomma, quindi neanche il Milan è messo benissimo sui conti, questo lo sappiamo un po' tutti. Lo sappiamo, ha scelto una strategia diversa rispetto all'Inter. Daniele Palermo, poi vi faccio sentire Peter Fila al microfono di Dario Ricci per chiudere il programma. Daniele, buongiorno. Buongiorno, un piccolissima parentesi su stasera, su Bayern Juve e sulla libertà di gufare. Sì. Il radioascoltatore di poc'anzi, liberissimi tutti di gufare, però poi quando non abbiamo più squadre in Champions perché ci supera pure il Portogallo, poi piangiamo. Argomento che invece mi è più a cuore, farsa, chiamiamola farsa, Palermo di tutto l'anno. Sì. Molti non sanno, fuori da Palermo ovviamente, che a parte gli 8 allenatori cambiati da Zamparini quest'anno, il buon Zamparini ne ha combinate ben altre quest'anno. Vi cito solamente per motivi di brevità un episodio. A parte che Zamparini, vista la... qual è questo episodio? La scarsezza della squadra di quest'anno, aveva promesso di prendere giocatori importanti, giocatori già pronti per gennaio. Sì. Ha preso 3 diciottenni, di cui uno si è scoperto dopo 6 giorni, tale Arteaga, che aveva una coscia più magra dell'altra ed è stato venduto dopo 10 giorni. Ha preso un 18enne ungherese, tale Balog. Sì. Propinandolo alla stampa come acquisto da 6 milioni di euro. Il giorno dopo è arrivata la mail ufficiale della squadra venditrice, il Debrecen, che diceva, cioè sputtanava Zamparini davanti al mondo, dicendo che il presidente aveva messo 1-0 in più perché il giocatore era stato venduto per 600.000. Sì, 6 milioni. Daniele, possiamo andare avanti a fare un lungo elenco su questa disgraziata stagione del Palermo, ma torneremo a parlarne con più calma, certamente. E saluto Marco Bellinazzo. A presto. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Vini in redazione, perché vi faccio sentire Peter Phil, che oggi ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera con Dario Ricci. È una cosa, un obiettivo, un sogno che ci ho sempre sognato, diciamo, e adesso è diventato verità, è veramente bello. Abbiamo sentito l'urlo e abbiamo visto anche qualche lacrimuccia nel momento in cui è stata ufficiale questa vittoria. No, sì, quello ci sta, penso, cioè si vede quanto importante era per me. Senti, una stagione coi fiocchi, mi viene da dire, proprio perché sei stato regolare dall'inizio alla fine. Sì, sì, no, veramente ho fatto una stagione ottima. Cioè, sono sempre partito bene, sempre arrivato nei 10, ho fatto gare perfette come a Kids Ball, anche in altre parti, però dove ero un po' meno fortunato col tempo. Comunque sono sempre molto, molto, molto costante e perfetta. È mancato purtroppo alla fine il duello con Dominic Paris, visto che ieri comunque Dominic si era fatto parecchio male nell'unica prova cronometrata. Ecco, come sono stati i momenti della vigilia con lui e anche dopo il traguardo, cosa vi siete detti? No, lui mi ha fatto i complimenti e lui sa quanto difficile è vincere questa coppetta qua e che tutto deve girare bene. Lui ieri sicuramente ha già rischiato tanto per anche vincerla e ha sentito un po' la pressione, ha fatto questo errore qua e succede, cioè, è normale. Cioè, anch'io le due prove le ho fatte sempre bene ultimamente, invece la gara ho sofferto un po' e la tensione, poi non sono più riuscito a ottenere quei risultati che magari avevo in me, diciamo. Permettimi, adesso nel tuo palmarès mancherebbe una medaglia olimpica. Che dici, può arrivare? Assolutamente, cioè, ci sto lavorando.